Amici di Web Radio Luzzi, questa è Sulla Linea d'Ombra e vi do il benvenuto a questa nuova puntata. Questa sera, come vi avevo già annunciato attraverso il gruppo Web Radio Luzzi su Facebook, ho preparato uno speciale su quelli che sono gli avvistamenti alieni nei cieli della Calabria. Mi sono attrezzata di materiale, soprattutto questa volta non tanto raccattato su internet, quanto per lo più raccattato dai giornali locali, perché, come potete ben sapere, è una notizia abbastanza strana, che cioè, queste solitamente sono avvistamenti che vengono fatti nei cieli dell'America. A quanto pare gli UFO hanno preso d'occhio la Calabria e ricordo, tra l'altro, una volta, alla prima stagione di Sulla Linea d'Ombra, che uno dei nostri amici ci aveva comunicato di aver avvistato nei cieli di Rossano un UFO. Cioè, un UFO lui credeva fosse un UFO in quanto disse di aver visto un oggetto volante non identificato. Diciamo che molto spesso quando si parla di questi avvistamenti si va, come dire, molto spesso a confondere qualcosa nei cieli che si vede. Una volta mi ricordo che un palloncino a forma di cavallo, che era salito tanto in alto nel cielo da rendersi ancora visibile, ma non nei contorni della sua forma, per lo più aveva suscitato l'interesse di molti media che erano subito accorsi, alla fine ingrandendo comunque attraverso delle videocamere molto molto speciali e diciamo molto avanzate, si riusciva a vedere comunque sia che era in qualche modo il contorno di un palloncino. Un'altra volta ancora è successo che a Striscia la Notizia, penso che tutti voi lo seguiate perché comunque è un programma molto seguito, un telespettatore aveva richiamato appunto l'attenzione di questo programma perché diceva di vedere ogni sera un oggetto luminoso che praticamente si spostava come se volesse seguire appunto la posizione della sua casa. All'epoca mi ricordo che erano intervenuti numerosi studiosi, tra i quali uno che comunque si erano rassicurato dicendo che comunque si trattava di una stella e seguendo appunto la rotazione del percorso terrestre si spostava insieme ad esso. Quindi non c'era niente di alieno in tutto ciò. Questa sera invece vi vado a parlare di questi oggetti volanti che sono stati ritrovati e rintracciati, scusate, sui cieli della Calabria. Cioè diciamo che nel periodo in cui siamo si parla sempre in TV di cose molto più pesanti, si parla sempre di crisi, di disoccupazione, di spread che sale, di Bund e quant'altro. Tutti quanti che siamo lì a pensare adesso ci mettono le tasse, adesso ci tagliano ancora il sistema, adesso ci lasciano a casa, adesso così. Noi parliamo, come si suol dire, a volte di patatine fritte, potrebbe dire qualcuno, di aria fritta ancora. Però diciamo che se dobbiamo sempre stare a pensare a tutto ciò che di negativo ci accade intorno, all'ingiustizia sociale, alle pensioni che vengono tagliate, a questi parlamentari che hanno un sacco di diritti e noi non abbiamo niente, diciamo che la vita diventa molto più lugubre. Quindi questo programma, questa sera spero in questo senso di farvi per un attimo staccare da quella che è la realtà quotidiana abbastanza grigia degli ultimi periodi per farvi entrare in una realtà parallela in cui appunto si può in qualche modo allontanarsi per un attimo da quelli che sono i problemi della vita quotidiana che purtroppo al giorno d'oggi colpiscono tutti. E molto spesso, appunto, verrebbe da dirci proprio come una famosa canzone, extraterrestre, portami via. In questo caso, portaci via, nel senso, magari se conosci un pianeta migliore di questo, attualmente noi siamo qui, ci prepariamo due cose, mettiamo giusto due cose in una valigia, veniamo via con te, visto che hai preso di mira la Calabria. O forse perché la Calabria comunque sia non è un lembo di terra abbastanza ampio, spazioso, appunto, in cui, come dire, in cui appunto potrebbero avere degli spazi questi extraterrestri per poter appunto appropinguare, tra virgolette, le loro navicelle spaziali, che sono comunque sia di una certa portata in determinate zone di campagna, dimenticate appunto da quelli che sono i conglomerati urbani che noi conosciamo. Forse queste sono le motivazioni che io penso abbiano spinto gli extraterrestri a prendere di mira la Calabria. O magari, non lo sappiamo, è tutto un montaggio ancora, cioè, nel senso che tutte queste cose che sono state pubblicate di recente sui giornali sono semplicemente stati dei montaggi per poter far scrivere un articolo a qualcuno o per poter solleticare un attimo la fantasia delle persone che in questo momento, mai come in nessun altro momento, hanno bisogno di credere in qualcosa di extraterrestre, di particolare, paranormale, appunto, che vada a salvarli da una realtà che può essere in alcuni casi Dio e in altri casi gli extraterrestri, non per voler paragonare le due figure insieme. Comunque, prima di addentrarci nell'argomento, io vi lascio ad una breve pausa, restate con noi perché è molto interessante.